infatti, è infatti proprio Parizio che c'è che andare a entra proprio. La piglia la macchina va di qui, la chiede perfetta, quella che c'è qui io era la migliore che c'è. Ma le squadre c'avevano un figlio, erano lontani una dall'altra, e poi c'avevo anche la squadra volante, io qui dovevo fare gli interventi, dovevo fare. E non sono tutti che lo fanno all'inizio, perché tocca stare con la squadra volante sempre a prezzo. Vedrà come se ne pentiranno. Sì, anche molti generici stanno piangendo perché me ne sto andando io. Giardinieri, a me di gente dispiace che io me ne vada perché sanno che persona sono. Già potevano tenerti a voi, è proprio la burocrazia, tutta l'ufficio, mannaggia la marina qua. E purtroppo loro non possono fare, hanno le mani legate. Il direttore dei lavori, lì non ci sono uffici, né i dottori, nessuno. Lì sono tutti a contratto. Se funziona così. Calci nel sedere ci vogliono a te. Calci nel sedere, non c'è nulla da fare. E poi, anche se c'è il calcio nel sedere, lì non ti manderanno mai, se tu entri in ufficio, lì non ti mandano, perché sono tutti a contratto, ti mandano da un'altra parte. Ma io per fare quel lavoro lì ci avrei messo la firma. Ah, beh, quello è poco ma sicuro. Ma anche se ti avessero mandato da un'altra parte, avrei messo la firma lo stesso. Sì, Alberia. In chi una volta gli entra non si gode più quella nessuno. Infatti. Ma bisogna stare impassibili, no, vedrai, se già si sistemano le cose. Sì, già si sistemano, io ormai sono già anziano pure, non è che sono giovane, ed è un casotto anche per quello, capito? No, sono impassibile io, sono bello rigido, gatto, va, tu mi devi vedere. Già sono impassibile io. Apponato, smettila. Apponato, finisce di smetterla, so che faccio fare con muro, eh? Hai capito? Eh? Hai capito però me? Ecco uomane. Ma questo è bravo cervaccio, eh? Hai capito? Non li abbandonerei, ma non lo faccio per loro, lo faccio per i soldi. Ah, beh, quello è poco ma sicuro, Alleluia. Che ci vogliamo fare? Non ci vogliamo fare niente. Canta uno di gli asini di me, canta che fini da voi di noi. E ha detto, canta, il piremo e mi mandi a ripassone come ti si tocca, canta. Chissà che mi manda là. A chi li devi mandare? Un autista e un giardiniere, capito? Ehi, sarà carannaggio è tra chi, io. E infatti è già buriato, visto che a chi ormai era abituato a me, capito, mi comporto bene con tutti, mi comporto e lavoro, non sono di quelli che stanno con le mani in mano, capito? E giustamente molta gente ti piace questo. Per pure chi sa generica chi è chi vuole buttare la origine, ma mi sembrava niente che ha detto. Ha detto come te sei non venne. Avvicino niente crudeli io, che io con la macchina più piccola caricavo più di lui. E chi tu ha sei grosso, io Michelino confronta a Edu. Ha detto boh. E nessuno per spiegare come mai non lavoravano gli altri. Ah, come c'è Marcello? Oh, Natale. Chi? Marcello. Il cognome mi devi dire. Che è grosso, panzone. Ma bisogna vederlo per lavoro, lui, capito? Bisogna vedere se era nel mio settore. Lui lavorava giù al cimitero, poi l'hanno spostato verso piazza Cartelli di Divieto, questa roba qua, capito? Non è nel mio settore allora, dai. No, loro hanno il magazzino, ce l'hanno vicino al bar. Quelli della segnaletica sono. Ma servizio manutenzione. Della segnaletica, sì, esatto. Quello lavorava giù prima al cimitero. Sì, ho capito. Ma quello deve essere fisso però. Sì, quello è fisso. Poi c'era un altro che lavorava al cimitero, adesso lavora sempre nelle manutenzioni, che ripara asfalto, tutto quello che c'è da fare. Sì, ha già compreso, nelle servizi di manutenzione, insomma. Quindi. A Parogero. Ma le via zia, già non parliamo un cazzo prima, adesso fai ancora di manco. Da lui c'è da lavorare invece. Non mi spetta a lavorare come lavoro io, perché io dalla macchina, quella gente che cazzo guarda, chi manco dalla macchina si ne va, perché non gli spetta proprio a farlo, loro devono guidare e basta. Capparogero. Infatti io penso che queste cose loro le mettono in evidenza comunque. A chi non passa né a controllare, senza il direttore dei lavori, ma mi si accoglie. Appunto. E cose che dovrebbero riassumerti. No, se non entri in graduatoria è tutta roba di graduatoria in chimica, rimandano in piglia. Da voi siete casa di mare si accomodi. Un casino, guarda. Quando è contro sì, a Luca è entrato in graduatoria, non l'hanno preso. Mi piace qua e te lo puoi dire. Carezziamo schifo e basta. Ho parlato con una persona oggi e mi ha detto qua lavoro non ce n'è, abbiamo le domande da noi gatta fin qua a capo e non ne possiamo prendere perché lavoro non ce n'è, capito? Non che non vedo travaglio non ho più il personale ed è un casino lì di travaglio non viene il loco, è una crisi che fa far vento, ha detto. In effetti già crisi ce n'è, la verità si dica, però io avevo pure la gente in una gara di travaglia. E lì su sì, No, ma io va. Io trovandolo mi faccio il mio. Tranquillo. Come ho sempre fatto, io ho sempre lavorato da bambino piccolo qui. Speriamo che riesca a trovare qualche buco. Sì, auguriamocelo a te, poi. E infatti. Se no è un macello. Ma ce l'ho e poi io. Ma speriamo si mettono a posto le cose, Qua, senza farlo mangiare mi sono godato, anche io mi devo capare tutto. E dico io non avevo mai fatto mangiare, ero con un pittore che era. Non mi diceva niente, io gli portavo già la cosa che serviva. Però una settimana di gatta che ti dico via di tutto. Cazzo, io ripuciamo la cosa, contentissimo. Beh, perché così, dai. Uno deve essere anche un po' attento sul lavoro, diciamo, dai. Signor Guglia, non mi desia una parola. E tu si girava proprio materiale in chibi di servizia. Ti so che ti senti, gatta, più contento di essere, e tu non l'hai mai fatto. Io non ne ho mai fatto manovrare. Io ci credo, Natalia. Ma lo sai cos'è, Natalia? Che basta poco, va. Basta un poco di attenzione. E poi vedi che si fanno tutti i lavori. Ma poi io imparo subito come avevo la situazione. Capito? E non mi posso obbligare a non dover travagliare. Nel senso che io quando c'è da lavorare, lavoro, capito? E senza stare lì a tirare la lunga. Non mi piace farmi fermo. Ma è così Natale. Purtroppo chi c'ha la voglia di lavorare non riesce a lavorare. Lo penso. Hanno una gara di lavorare, chi su blu, è la persona più fortunata che c'è. Guarda. Ah, vero, ma arrivata a Puglia, gatta. Se ti sono di gente che, gente mandrona che non ha mai lavorato in vita sua, gatta, c'ha fanno i tocchi migliori. E io, gatta, chi va giù la cana e lavorare. E che c'è bisogno di lavorare, perché uno non è matto a ammazzarsi di lavoro, però lo fa perché c'ha bisogno, la piccola. Gatta, e io non riesco a ciappare un lucro, fa più sia. Rimedio. Un macello, veramente un macello. No, se ne comprende più butta. Ui. A fare qualsiasi lavoro, io no, mi tocca a fare tutto. Sì, ci credo, Natale, caro Grillo. Io ci credo alla grande, non poco, alla grande. Mi pensavo di rovinare, mi pensavo anche di mangiare, che mi andavo a travagliare, compreso là. E quindi io lavoravo, capito? Ho sempre lavorato e so cosa vuol dire. Certo. La gente che ci vede niente di travagliare, di cazzo, la sui caro io. Ma che patente c'hai, Natale? Scusami se te lo chiedo. Cosa? Che patente hai? La Repubblica, io posso portare tutti i camion e i pullman di linea. Capita, non sei mai riuscito a trovarsi in qualche posto di nei pullman o compagnia bella, dai. Oia, conoscenze ci vogliono, calci nel sedere, se no non entri da nessuna parte. Se pure è vero, macello, per carità. E addirittura una volta dovevo portare il pullman della scuola guida a Cagliari, perché di me l'istruttore si fidava, a te l'immagine, non gliel'ho portato perché l'ingegnere non mi ha messo in coppia anche nella TP, e lui lo poteva fare, mio ingegnere. E l'ha detto che sull'istruttore, l'ha detto metti qualche buona parola lì e farla entrare almeno quattro mesi, nulla, non ho pensato niente di là. E allora lui mi ha distribuito a Cagliari. Su quella storia è fatto bene, certo cos'è. Sono per fare piacere, ma non è proprio, guarda, la gente è proprio. No, la schifo, dai. Però perché me l'ha fatto pagare? Cazzo, allai, mezz'ora di guida, 350 euro, due cianchini. E me l'ha fatto pagare. E tu cosa non mi ha messo in corso? Capito? Siccome ha visto che guidavo bene quello là, mi seguiva con l'altro pullman, no? E noi ci portavamo quello nuovo a fare la, come si chiamava, a controllarlo, però dovevamo portarlo a Cagliari a controllarlo, perché facevano solo a Cagliari. Capito? E praticamente gli ho detto no, sono impegnato, capito? E non lo prendo un cazzo, e tanto non mi dà via nulla. A gratis. Ma già si è dovuto buttare Raffaele, mi dispiace per lui, ma. Chi due è un bacciaglio principale? NBC di Bobo. Buonasera. da Gianni, e così è andata lì, e ha portato la revisione, e se l'ha portato e l'ha fatto bene. Io a Riganiru, ho preso là, come te lo discorso. Ehi, ehi, ehi. Ok, dai, facciamo girare un po' a Gianni che era in pausa. Non ero in pausa. Mi ero mangiato una pizza, sono caffè atturrato, sono passato il ragazzo e avevo preso le pizze. Andava, me in Natale la pizza. Ah, te l'immagini questo Gianni, ma te l'immagini, gà. Perché dovevamo comprarle veramente al supermercato quelle surgelate. Che lì non le voleva fare, invece poi ci siamo dimenticati che non l'abbiamo presa già fatta. Visto che stiate diventando vecchi anche voi, io poco fa ho dimenticato le sigarette, voi le pizze. Siamo entrati per le pizze, avevo fatto tutta ripresa. Arrivi di H, no, le pizze, vai, vai, vi aggraziate da comparati, vai. E infatti io perché non ci sono andato? Perché magari prendevo della roba qui, arrivavo qua e mi mancava qualche cos'altro. E infatti io ando dove la sera, prima di cima vai tu cosa più e mi rubiglio. Non ci sono entrato per quello io. Perché sennò magari no, mi dimenticavo qualcosa. E anche cosa mi sono dimenticato una pezza, dice mi sono dimenticato le sigarette. Sono capito no che mi sono dimenticato le sigarette. Cazzo, mi sono toccato i barati della sassa. Lugabro. Archivio, sai Conca? Conca Michele De Conca. La gente c'è qui primo. La Conca di Natalino. Prepara il passo per Natale. Cosa mi faccio dire io? Sono volte di zoma, Le ho parlato. E domani mi hanno fatto la barba, lo quarto, mi sono fatto bello perché sono tutti i baci che mi devono dare e domani, se no ci pungono. Tutte queste donne che ci sono, ho detto, bisogna la vita domani. E lui ride. Buonasera a tutti. Buonasera Antonio. Tu, e beh. Buonasera Antonio. Buonasera. E beh, allora. Che piedino mi pare che ci sia. Sono qua. Ma sei anche lì. Basta, non l'ho più usata, ce l'ho sempre riscascato ancora. Ma in Italia non mi vuoi arrivare a mia madre, e poi che c'è qualche giorni? Quello io me l'ho comprato per tenerlo di scorta, perché questo qui mi stava dando le pinte. Detto, se va male questo qua me lo tengo di scorta, e si via a me anche lì. Vabbè, già me lo sono comprato ugualmente. Cercando cose magnetiche a circa. E non la trovi, Già la trovo per un po'. Perché la voglio con un particolare, la voglio, che vanno molto bene. Sarebbe questo particolare. Poi c'era la calamita al centro. La calamita io ce l'avevo e ce l'aveva tutta intorno alla base la mia. No, io voglio l'altro, l'altro tipo. Cosa cambia? Che l'erba non va bene. E chiedere a Falchetto che ne ha una di quelle. No, non è così. Natalia, è quella che ho dato a te. Sai chi c'è che ti ha aiutato? Chi c'ha con la base magnetica grande grande che ti ho regalato io? Che fine ha fatto? Io la base magnetica ce l'ho. Anzi, l'ho comprata questa qui. Io l'ho comprata la base magnetica questa. Se tu vuoi avere, se non ha qualche parte la base magnetica, altro che ci penso. Dovrei avercela sì. Una base magnetica. Io non mi ricordo dove l'ho messa, io Paolo. L'ha testato qui, non c'è. Questo qui, non la vedo, è pure la vive. Non la vedo, ma c'è, è vero. Che posto, noi che posto, noi che posto, per carità. E Falchetto, dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Intanto Falchetto si è fatto la 2001, Marco Marco. Vabbè, mi ha fatto un regalo, Salvatore è una persona abbastanza, diciamo, disponibile, quando vede qualcuno che magari deve fare qualche cosa che ce l'ha, già è disponibile. Salute! Ah, non è lui, era mia moglie. Si è sentito, salute signora. Che ha quel gatto rosso, che c'ho io già. E glielo faccio vedere a tua moglie. Che cosa? Quel gatto nel rosso che c'ho io. Quello tutto a strisce. Eh? Ti faccio la fotografia e gliela faccio vedere. Già non può vedere anche il figurato. E ma io gli faccio vedere il mio è bella almeno la iatta. Che... Ma arancione sarà. Come? Ma per arancione. Quel gatto che c'ho io. Con chi luglio? Cioè? Sì, quello che è tigrato, bello, quello è bello il gatto. Lei per vederli belli basta che resti a casa e non vede il gatto bello, non c'è bisogno di andare fuori. Vai, vai, che tu, se vedi il gatto mio ti spaventi. Ah, se va il buccio a casa tua che di ricapo, chibi. Poi dai. Non parlo. Allora si può ingravidare lui la iatta, che anzi no, chi si è sterilizzata, ma la giusta. Stille. Perché quello è maschio, quello che c'ho io. Si la magna, non si lo magna. Qua è più grossa zitti che femmina del maschio che c'è, cioè, è più grande e più lunga. Ma quello è giovane, ed è già un gattone. Già, che stavo dicendo, un gatto. Ma è, secondo me è gay quel gaga. E il paese non ha rigo. E si la iatta mia, si va a Titti, fai la cena a tutti. Ah, io che vuole dei gatti, mi facilite di andare a lei. Sì. Non ti preoccupare tu, e se ne sento come interrompadrono su affari della iatta a lui, Ah, non ti interrogano un po' qua ci vai. Gattone! Allora, Luciano, gatta, è la destra e la luce. Tutti i gatti che trova se li deve fare immediatamente. Non è morto, non è morto. molto picco. Quando ci spianta. Adesso mi da oggi comincio a trattarlo bene, non lo sarà bene, compro una di quelle scatolette gourmet. Ma non lava Rugaro, ma se no è vuole spazzolato di giorno. Lava spazzolato di giorno, non ti preoccupare, pensa alla gattaduglia. Di giorno. Dice selvaggio, è selvaggio che sa gatta. Si doveva attaccare a rubare di via Luz in Chivi, gatta. Deve sempre farsi le unghie e sale su quel palo. Sì, ma così ti ammazzi, si va di lavare. No, non mi si fa prendere, è dopo. Anzi, mi stava seguendo, come l'ho chiamato, vieni, vieni, bello. E stava venendo dentro a casa, lui non l'ha giocato in tratto. Fallo entrare, un rapo, ti vedi il dentro a casa. No, che selvatico quel gatto, no, non riesce a domesticarlo, no. Se lo prendi da piccolino, allora magari sta, ma questo non ci sta dentro, è peggio del cane. I suoi cani ormai, tu lo tieni in occhi, dopo 5 minuti se ne può andare. A chi lo vedi in occhi? Sono diventati orecchi, sono diventati. Per pacco. Natalina ha detto che si fa, che vi fa fare la mia gatta, se nascono i figli, non lui. Ma cosa nascono i figli, se stessi li tagliata. Ma di vita compassione, e se entra il mio, ma non è il turbo e tagliata il vagino. Non c'è bisogno. Ma cosa c'è bisogno? Se lui la prende di Natalina, che tagliata, della Ruzzini. Ma se ti li vuole puliti e profumati. Ma io non li pongo più, funzionano i tratti, li pongo un profumo mio, li pongo che. Il profumo la conquista di me. Sì, sì, femmini, andare da un cancello, ci sì. Chiedo subito a balla. Chiedo, se no. Ma non sono io, se non sono io. Sono abituati a fare bisogni nella terra, tutto diverso, capito? Porcare polpastrini, invece tutti ce l'ha ancora la rosa. Ma boh, Natalia, ancora la rosa ce l'ha. Allora, come ti la vedi, la gatta mia, guai. Titti è come il padrone, profumata e pulita. Ehi, cazzo, mi non posso profumare pure io, mi. Per l'appuntamento. Andava bene. E via. Sto scherzando la taglia. Cava, cava. Se non si scherza, non è tanto. Ma Capri 2, non è tanto. Se sento che entrava. Roggia. Facciamo un attimo la pascale. Dove vai tu, cazzo, ci posso riportare. Ma un po' ducata l'ha fatto. Ma vai. Tu non devi essere in chimica. E mi dirà la taglia se non pescavamo. Magari adesso che hanno fatto tutti quei lavori, prima era, c'era un punto dove c'era la goccia che lo sapevo che era tirato verso l'angolo, ma poi il resto era tutto pulito. Allora io ho preso anche la ratta lì, e c'è Gianni qua che lo può dire, non solo l'altro. Ah, ma dove si hanno buttato sul fondo, ma è tutta la ratta. Non sai l'esempio che ho preso lì, non ne hai idea. Proprio preso, diglielo già. E poi, non la matta, di tu. Ho preso un Vugine pure, senza volerlo, ma l'ho preso. Il ricetto che prendevo lì, non hai idea. Prima era così, la tele, ma adesso come no? Come ho toccato in fondo, cos'è? Vabbè, cosa ti stavo dicendo? Probabilmente lì hanno posurato il trufondo e quello è il problema, che hanno magari sporcato buttandoci le ruce, tagliando il molo, perché non tagliato un pezzo di molo. E allora hanno posurato il trufondo, hanno chiuso i danni e non vi sarà più molto a pagare. Allora sono andati a Calamari a Sissi, non avete preso nulla. Eppure lì ne prenderamo, mi disse che... E me li mando primi. E già lo sa che... Già lo sanno anche quelli che si vogliono vedere. Perché se ne prendevano per il viso. E l'ha giubilato giù in una busta, e l'ho chiesto la mano a questo tipo, ho detto, ma da una mano che sono due grosse. Allora ti metto il coppo io, cazzo, ti metto il coppo, una se la fa scappare, l'ha toccata appena appena nella buta di neva, e l'altra l'ho presa. E una mi era scappata, gli ho messo la pettana alla vasticata, che lei è arrivata anche lì, e l'ha giubilata, e me la madura, e mi pare che la premi la buca, attivamente la buca. Quello che ti hanno detto di lasciare la riga ti l'ha valeato. Infatti. No, lì già ce n'era, no? A voi da che non pescate, l'ho pescato anche 12 una volta io. Ah, mi ha detto Franco che l'altra volta era andato all'altra parte e l'aveva preso. Ma evidentemente è stato toccato il fondo lì e non c'è più nulla. Ah, boh, non lo so. No, ma pesce ce l'è ancora, perché sono andato io e ne ho pescato ancora. Ho pescato due morboloni grossi, una bella orata. No, già ce n'è. E allora, boh, e le seppie come mai non ce n'è? Le seppie né calamari? Strano. O forse perché ha chiuso me. Sai cos'è? Il pesce io non lancio più dentro, capito? Non te lo lancio lontano. Faccio un po' lontano e prendo i bimbissi in un canale che c'è, che mi hanno detto, di lanciare lì. Non li vuoi che là ci pigli, Io pure lancio lontano, quello che mi sono pentito che meno stavo lanciando prima vicino e mi hanno mangiato i bresciali l'esca, quando c'avevo un po' casca stavano mangiando i lussi da tutti i due, ecco. Io lancio sempre nel canale del mercato e mille mia, oh, è Laura. Buonasera. Buonasera. E beh, Andrea. Buonasera Gianni, buonasera Natalino, non so chi altro c'è perché è acceso proprio 7 minuti per far scaldare per salutarvi, perché a voi tutti gli auguri vari che ho fatto a tutti gli altri non ve li ho fatti, ho fatto a Gio Maria, ho fatto a Mario, ma ho fatto tutti gli altri, a voi non voglio ciò farlo in radio, vabbè Natalino li ho fatti per il meglio. Buon 2010 Gianni. Vabbè, io l'ho già messo a posto. Grazie Adriano, altrettanto tutto ciò che tu desideri. Ma quella cosa che ti ha mandato a Natalino, piaciuta a te? Quella cosa che mi ha mandato a Natalino? La foto? Quella foto, Ma infatti, mi ho risposto se ti è errato alla colofilia. Perché non mi risultava a me. Beh, lì, miei pesciolini, quelli piccolini, sì. Bella, perché? Com'è che l'acquario tuo? No, è mio, io non si tocca. L'abbiamo fatto io, ve l'ho allestito io, tutto qua. L'abbiamo comprato, l'ho messo la fissazione io. No, guarda, è veramente un bel passatempo, è veramente un passatempo, un hobby più che altro, solo a un certo punto ti occupa un po' troppo di tempo quando cominciano a figliare, a fare uova, a coppiarsi, eccetera, eccetera, non può un momento del fare, infatti c'è tanto, c'è un acquario serio, 200 litri, 70 varia, se si prende la passione prima però è meglio che che ci faccia, che ci faccia la mano avanti in alta laus, fai girare, non so chi c'è, presenta tu, che cacchio ne so. C'è per Paolo Antonio Falchetto, Gianni Doppio Run, Natalino Alfa 1 e Adriano. No vabbè, Gianni Doppio Run è un deviato, quello va a transessuale, non mi interessa. Mi sembra che anche a Pierpaolo e come ho fatto gli auguri, io sono andato, non so, una volta che c'era con Mario Mauro e con altri. Comunque, rinnovo anche a Pierpaolo e soprattutto un miglior 2010 per quest'anno, avanti Pierpaolo. Grazie, anche a te, grazie. Speriamo che quest'anno sia appena appena più grasso. Auguri da parte mia, Andrea. Anche a te, Falchetto. Sì, qui. Io sì, qui. Vabbè, allora, non esageriamo gli auguri. Paghi... Ma sai come? Era successo una mattina che ci siamo trovati, questo il giorno di Natale. Ha trovato tutti i vecchietti da cui che abbiamo scambiati. Lui va, quindi il ritardo valgono alquanto, ma a qualcosa servono. Natalaus, prendi, fatti sentire, morto. Hai fatto così, ti temo io. Parliamo di acquario. Cosa c'è più di pesce, Adriano? No, no, no, io ho smantellato tutto quanto da circa un anno, ho smantellato tutto. Avevo due acquari, uno da 200 e uno da 80, smantellati e sono... Non, come si può dire in soffitta. Fare le palle, troppo da fare, stava una cosa esagerata, troppi pesci, troppo casino, troppa roba. I pesci basta regalarli, scusa, uno che ci avesse serrato due, quando nascono li regali, tanto non te li comprano quelli dei negozi. No, infatti ho regalato tutto, tra le bite, le cose, cacchi vari, eccetera, eccetera, li ho regalati tutti quanti. A un certo punto anche un misero 200 litri a un certo punto si riempie come un uovo, si riempie come un uovo e non ha chippi, non ha chippi, mette doppi filtri, tripli filtri, cazzi vari, no? Pure la passione è rimasta, però ci vuole anche un po' di tempo, a un certo punto un passatempo non deve diventare un'occupazione continua. Ah, no, no. Io ce l'ho l'acquario, ce l'ho 14 anni, mi hanno figliato, l'ho fatto, però non l'ho mai smantellato. E ci vuole la passione, perché se uno sa come deve fare a tenerlo, poi la passione ne viene. Io adesso ho pesci che costano un po' di soldi, cioè i discus, non so se tu li conosci. Capo, infatti era proprio quello il problema, i discus, che hanno un sacco di problemi, i discus praticamente hanno bisogno di molto spazio, e quando metti i discus, però a parte i vari problemi di salute che hanno, non è che ci puoi mettere tanto altro dentro, loro hanno bisogno di 200 litri solo per loro, cioè 4 discus e poi non ci puoi mettere nient'altro. Ah, ce li puoi mettere, ci puoi mettere neo, pesci da branco. Ma i discus basta che metti o acqua osmotica o acqua distillata con un pH 6. Il pH dell'acqua deve essere 6, sì. La temperatura sui 29-30 gradi se non dalla grana. No, lascia perdere, l'acqua distillata è un veleno per i pesci. Io ormai sono acquariofilo da quando avevo 15 anni, 25 anni sono dedicato all'acquariofilia, c'è un pacco di riviste, robe di apparecchiature, misurazione di pH eccetera eccetera, quasi stillate, è la morte dei pesci. Tutto sta creando l'ambiente giusto. Guarda, facciamo girare, siamo un po' di diamo avanti. Natalino Bianco, un secondino per me, una robetta che devo chiedere, sta rompendo la mano. Natalino, senti, provo in giro, mamma mia, ti abbasso i pantaloni. I miei pesci dovrebbero essere tutti morti, Adriano, secondo il tuo punto di vista. Io i pesci ce li ho 14 anni, anzi di più, 21 anni ce li ho addirittura. Vabbè, li ho cambiati, ma uso sempre acqua distillata. No, ma perché tutti morti, Gianni? Acqua distillata non ha senso. Non ha senso. La cosa che ho imparato in 25 anni di acquariofilia è semplicemente prendere acqua di rubinetto e farla riposare, decantare semplicemente per evaporare il cloro. Tutto lì. Poi si arrangia l'ecosistema proprio dell'acquario. Se è acquario grande deve essere almeno 200 litri. Un 60 litri ci butti l'acqua del rubinetto che rimane giù subito per il cazzo di cloro. Stiamo parlando da quali grandi veramente. Un bianco un attimino. No, informati che l'acqua distillata la usano i migliori acquilofili. L'acqua sia l'acqua distillata o l'acqua osmotica viene usata dai migliori acquilofili. I discus campano con pH 6, l'acqua distillata c'è un pH di 6, se tu prendi il pH del rubinetto è 7. Tante volte manco col mio condizionatore riesce a regolarlo. Gianni, guarda che c'è il filtro osmotico che fa tutto lui, non ho capito perché devi mettere l'acqua distillata. C'è il filtro osmotico nell'acquario, perché devi comprare acqua distillata? Filtro osmotico, ma sai che ce l'ha? Io non ce l'ho il filtro osmotico, ho filtro a spugna e carbone attivo nell'acquario. Ecco, se filtro, no, non lo sapevo, ma se c'è già l'osmotico nell'acquario, guarda, se devi mettere acqua distillata, il lavoro suo lo faccio al filtro osmotico. E quel bidone grande da 25 litri che si mette a fianco, gli acquari grandi da... Fianco la batteria. Sì, già lo so. Aspetta, facciamo girare, se no il discorso viene vasto. Comunque informati, guarda su internet che ci sono, e ti dicono che usano acqua distillata, tutti quelli che allevano pesci tipo i discus, usano non per tutti i pesci, ma almeno per i discus l'acqua distillata è importante, se sono vivi per quello. Ma non cambia il piatto osmotico, allora sì, ti do ragione, non c'è bisogno. Però in sostituzione del piatto osmotico, usiamo acqua distillata che costa una fesseria, costa 85 centesimi ogni 5 litri, quindi non è che costi tantissimo. Avanti, per pari. Tutti i fuggiti se ne sono. Che non interessava il discorso, dovresti. Evidentemente sì. Una cosa, Antonio. Bene, forse sta facendo qualcosa per farlo, se è fuggito. Grazie, sta facendo qualcosa. Ehi, Anto. Oi. Cava. Natali, vai su internet, c'è la computer a fianco. Ma è sì. Allora, lascia perdere. No, è sicuro che problema c'è già. Ma no, per vedere... se è vero che si mette l'acqua distillata ai pesci. Io non ti posso rispondere perché non ne capisco nulla. Ma io sì, ma... Cavagava. Io i miei li stavo facendo andare l'acqua distillata. Se poi tu li metti, l'acqua del rubinetto è già un pH un po' più alto. Con metalli pesanti, invece l'acqua distillata è neutra, è acqua bollita, non è altro che acqua bollita. Io ho visto come si faceva, c'è un macchinario per fare l'acqua distillata. Dove l'hai vista? Io sono stato a scuola dove facevano tutte quelle cose lì. Cavaga. Insegnavano a fare l'acqua distillata. Hanno fatto un macchinario autocostruito, c'era un passaggio, c'era una resistenza che la distillava. Era tutto un meccanismo, da una parte entrava il tubo del rubinetto, che lui fa lasciare piano piano, poi dall'altro c'era una resistenza che andava in sterilizzazione e poi usciva l'acqua, la fa distillata dall'altra parte. Solo per fare l'acqua vita in poche parole. Può essere una cosa del genere, è una cosa del genere. Questa non è demineralizzata, che dovrebbe essere acqua distillata, la demineralizzata, e poi la chiamano osmotica, la chiamano demineralizzata, ma sempre acqua distillata. Sì, no. Allora ho visto già come la fanno, perché ho anche un po' studiato. E vabbè, quella resistenza serve per scaldarla. Ho fatto esperimenti perché ero a biologico, ero. Seri? Biologico. Ho capito la parola. Radiologico. Ah, biologico ha detto. Ah, biologico. Ah, va. E a me lo sai che me l'ha detto di usare l'acqua distillata, ma non adesso, ma 100 anni fa. Un biologo. Quindi ho visto fare varie cose, come bisognava fare tutto quanto. Ero stato però per un annetto, ci sono stato lì, qualche cosa l'ho imparata. Chi è che mi stava cercando? Io ti ho chiamato per rilanciarci. Siccome abbiamo sentito parlare di pesci, mi è arrivato un filmato. Mi sono distratto per guardare questo filmato. Ma era... che te l'ha mandato, Natalino? No, non mi ha mandato niente, Natalino, è arrivato da un'altra parte. Lo posso immaginare? Una cosa troppo violenta ho visto. Vabbè. Violenta sui pesci, l'unica cosa che violenta sui pesci la puoi vedere con i beta splendens, la cosa non puoi vedere violenta sui pesci. Cavacava, ma un pesce dopo come ti muovi? Cavacava. Ok. Foto di sto cacchio di acquario. Acquario no. Atalaus, manda foto, invia foto dell'acquario. Sì, se dovrei fare, dovrei anche accendere il computer e non aggiungare. Ma noi in questo momento, quando ti batti i piatti, manda foto. E sembra che se faccio quello da 200 litri l'avrei visto. No, non è antico. Lui ha 120 litri, non è tanto grande. Acquario. Della metà io non avevo bucato pure un rumore di materiali bombi, quattro pompe, la pompa dello smutico e le tre pompe dei filtri, non commento, neanche io. Ah, mia silenziosa, non fa rumore. C'è un altro sistema, quello lì, Adriana. Comunque, questo biologo mi ha detto che la cosmotica ne sprecavi un bel. Ha detto che conviene di più comprare quella distillata perché costa poco, la comprava dallo Spin, la pagava 80 centesimi di 5 litri, dice costa pochissimo. È una soddisfazione più grande, perché non devo regolare nulla, il pH già 6, lo lascio così e buco. Io ho 25 anni di acquariofilia, ho avuto rapporti con altri acquariofili. La cosa era un po' diversa, vale. Ognuno ha le sue esperienze. Io logicamente mi sono Già da ragazzo mi sono affidato a chi ne capiva più di me, ho seguitato a fare come dicevano gli altri, non mi sono mai trovato male, mai messo acqua distillata, mai niente. Assolutamente, soprattutto dove non ce n'è bisogno, soprattutto a Sassari, dove non c'è acqua dura, quindi non c'è bisogno di togliere il carbonato di calcio, ma perché la fai decantare 24-48 ore, togliere giusto un po' di, no, giusto, tutto il cloro e si è a posto, non sta bene, 200 litri ogni 15, ogni 2 settimane e cambiarne 150 litri tutti di un colpo, ed è un bel colpo, e quindi già farla abituare. No, vabbè, la vediamo in modo diverso. Io ogni 2 settimane ne cambio 3 dita di acqua, se no mandi tutto l'habitat, tutto l'ecosistema che c'è all'interno dell'acquario, lo mandi in una mare, si capita quell'acqua lì. Io ho tre dita ogni 2 settimane. Come se tu vai a qualsiasi negoziante, ti informi su qualsiasi cosa, ti cerca di andare 3 dita. Io ho messo sempre quella l'acqua, ho messo del rubinetto con i ripisti, con quelli li aggiungevo 2 tappi di biocondizionatore, era fatto il gioco, ma adesso ho i viscus, non c'ho i ripisti, capisco? Ah, che vai con la roba chimica, mai usate porcheria tipo biocondizionatore eccetera eccetera, quello è bello. Sicuramente ricordate che la cosa di cambiare il 70% di acqua ogni 15 giorni è una cosa che bisogna fare quando c'è un sovraccarico di pisci, come ce l'avevo io, un sovraccarico, sovrappopolazione, sono obbligato ogni 15 giorni almeno a cambiarlo. Quando i valori andavano a puttane, quello che sono, avevano dei valori di azoto a 1000. Perché non si deve sovrappopolare l'acquario, si sa che se l'acquario è sovrappopolato, le fici, tutto quanto creano problemi, malattie e cose vai. Nell'acquario ci vogliono i pesci giusti in base lì, ci vogliono tanto di pesci, non si sovrappopola mai in maniera sproporzionata, perché se no ti succede quello, o si ammassa uno con l'altro oppure va a finire che si ammala. Avanti Pierpa. Continuate. No, Pierpa, Gianni, per fare la chiosa, per chiudere, si parliano peggio dei risori, peggio dei gunitoli, gas, sempre gas, tre sale e patto sempre piene, e a un certo punto infatti è per quello che sono mancato tutto, ripeti per salotto. No, ma intendo gli acquari, no? Di quello la pezza di acquari, non lo intendo, io lo intendo gli altri acquari, ma non di quello. E quindi non è solo le nutre che intervengo. Che a questo punto sono anche curioso io. Dimmi di che acquario ti intendi tu, tipo altri tipi di pesci? Non proprio, vai. Io sono più per altre cose, non me ne intendo, acquari non proprio vero, non li mangiano a me le pesci, figurati, non mi piacciono, tranne qualcuno così, no, tipo terri, cose così, cose, pulpi. Beh, vabbè, allora siamo in due. Io sono un pescatore, acquariofilo, mi va di schifo di un pescio. Mangio un bozzi e saggio di impanata. Natalino mi prende. Di casi, altrettanto per me. Non me ne intendo io, mi intendo di cose. Ecco. Avanti, Brecco. Ecco, cosa Brecco? Ah, avevo preso Brecco. E me a Gianni non gli piacciono molto. piacciono i frutti di mare. Che ho preso le anguille e da un po' che non le mangiavo, le ho mangiate veramente con voglia. Oggi mi sono fatto i polpi, sono andato al mercato, li avevano appena scaricati, erano ancora belli vivi. A giubileato me l'ho preso uno bello e me l'ho fatto in salata, proprio come piace a me, mamma mia che te la voglia. Li ho preso un peperoncino, un po' di cipolline sotto aceto, era di lusso. L'accetto già ce lo metto. Però l'ho messo solo nella mia perché mia moglie non le piace, mia figlia non le piace, a Marco non le piace, quindi l'accetto se me l'ho messo solo io. Bravo, però. Per voi, a volte ci vuole. Certo che ci vuole, per me è così. Ci metto anche le cipolline sotto l'accetto. Asinello. Vino rosso, vermentino di sorso, come ha detto dottor Carla, dove il medico l'altro di torno. Non fa lavorare di quello lì, Allora, ma soltanto basta luce così. Edu, vermentino di sorso, roba di cura non gli ha dato. Embriagame gli ha detto. No, questa è la fotografia di Antonio Collassato, il dove capolano. Sì, l'ho vista, nel divano. Ah, hai visto com'era? Bianco, caro Rico. E tu che l'hai fatto così? Vieni da davanti, lo vedi? No, vabbè, tanto era lì in casa, ma poi c'è perché l'ha fatto in altro rivaro, e li ha collassato. E poi se l'hai sentito a metà ottima con quattro, più rigoroso di prima. Via. Via. E passa subito. Ma quando il vino è buono così non ti lascia non girci, non le dici manca bisattina. Sono dopo, l'ha passato però no. E nei confronti si è andato mio cognato con le maestre mutiate, perché c'era un altro vino di proprietario di Orsi, che è buono, proprio si lascia bere, infatti gli ha detto, ma lo sai che questo vino bisognerà lì del libro, no? Bisogna non prendersi molta confidenza, cavolo, dice, è piacevole da bere il collo, ma le mie gambe si stanno già piegando. Vabbè, un po' fidanzino, piace, però da quei mugeranchi. È buono, è gradevole, da bene, amabile proprio, e da voi dico di forse. E in pratica è di quei vini che ti invitano a berlo, no? E tu vabbè, però ti muta anche, Però il compenso non ti va venuta, anche da voi, se ti passa non ti va venuta. Vabbè. Adriano, devi sentire a Natale la cantata al baracchino. Adriano? Adri? Sì, Adriano sarà impegnato al computer. Sarà impegnato, che? Lascia le donne al computer. Allora, sempre con le donne, sa, questo qui, preso di Gianni, che? No, io non ci vado, ma si dice per carità. Siamo divertiti, dai. Gli investimenti sono immobiliati. Così muove già. Almeno non ci divertiamo. Non facciamo, non fermo vino maro, no? Vabbè, infatti. Ah, io quello ce l'ho, mi c'è bevo. Mi dì da Natalino, anche l'ultima volta era a casa di Natalino, che ho bevuto quel vino che c'aveva. Alla borrisce, boh. Pioggia, neve non ha avuto, né venna, né sabato, 20 anni di vita, né niente.